Quindicesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, quindicesimo canto. Ora c'è in porta l'un dei duri margini, e il fummo del ruscel di sopra aduggia, sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quali fiamminghi tra guizzante e bruggia, temendo il fiotto che inver lor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia. E quali padoan lungo la brenta, per difender lor ville e lor castelli, anzi che Carentana il caldo senta. A tale imagine eran fatti quelli, tutto che né sì alti né sì grossi, qual che si fosse, lo maestro Felli. Già eravam dalla selva rimossi, tanto ch'i non avrei visto dov'era, perch'io indietro rivolto mi fossi. Quando incontrammo d'anime una schiera, che venian lungo l'argine, e ciascuna ci riguardava, come suol da sera guardare un altro sotto nuova luna. E sì ver noi aguzzavan le ciglia, come il vecchio sartor ne fa la cruna. Così adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: «Qual maraviglia!» E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto. Sì che il viso abbrusciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mano alla sua faccia, rispuosi: «Siete voi qui, ser Brunetto?» E quelli: «O figliuol mio, non ti dispiaccia se Brunetto latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia?» I dissi lui: «Quanto posso, ven preco, e se volete che con voi masseggia, farol, se piace a costui che vo seco.» «O figliuol», disse, «qual di questa greggia s'arresta punto, giace poi 100 anni, senz'arrostarsi quando il fuoco il feggia. Però va oltre, i ti verrò a panni, e poi rigiungerò la mia masnada, che va piangendo i suoi eterni danni.» I non osava scender della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea com'uom che reverente vada. El cominciò: «Qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì, qua giù ti mena? E chi è questi che mostra il cammino?» «Lassù di sopra, in la vita serena, rispuosi io lui, mi smarrii in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina le volsi le spalle, questi m'apparve, tornand'io in quella, e riducemi a ca per questo calle.» Ed elli a me: «Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E s'io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quello ingrato popolo maligno, che discese di Fiesole ab antico e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per tuo ben far nimico. Ed è ragion che tra li lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gentea avara, invidiosa e superba. Dai lor costumi fa che tu ti forbi. La tua fortuna tanto onor ti serba, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Faccian le bestie fiesolane strame di lor medesme e non tocchin la pianta, s'alcuna surge ancora in lor letame. in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio dimando, risposi io lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando. Chenna la mente m'è fitta, e or m'accora la cara e buona imagine paterna di voi quando nel mondo ad ora m'insegnavate come l'uom s'etterna. E quant'io l'abbia in grado, mentr'io vivo, convien che nella mia lingua si cerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e servolo a chiosar con altro testo, a donna che saprà s'a lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, pur che mia coscienza non mi garra, ch'a la fortuna, come vuol, son presto. Non è nuova alle orecchi miei tal arra, però giri fortuna la sua rota come le piace e il villan la sua marra. Lo mio maestro allora in su la gota destra si volse indietro e riguardommi. Poi disse: bene ascolta chi la nota. Né per tanto di men parlando vommi con ser Brunetto e dimando chi sono li suoi compagni più noti e più sommi. Ed elli a me: saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudabile tacerci, che il tempo saria corto a tanto suono. Insomma sappi che tutti fuorcherci, e litterati grandi e di gran fama, d'un peccato medesmo al mondo lerci. Priscian sen va con quella turba grama, e Francesco d'accorso anche, e vedervi, s'avessi avuto di tal tigna brama. Colui potei che dal servo dei servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, dove lasciò li mal protesi nervi. Di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può, però ch'i veggio là surger nuovo fummo del sabbione. Gente vien con la quale esser non deggio, sieti raccomandato il mio tesoro nel qual io vivo ancora e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Fine del 15° canto dell'Inferno.